Buona sera, giorno. Boh. Ciao. Ciao, sono Salla e questo è il mio sallotto. Episodio 6. E, come c'è scritto nell'articolo, volevamo fare un episodio serio. Molto serio. Purtroppo ci sono stati alcuni problemi personali e quindi abbiamo deciso di farne uno un po' meno serio. E poi alla fine niente, non avevamo voglia e quindi facciamo un episodio su un film di merda. No, beh, stasera parliamo di Detective Pikachu, anzi Pokémon Detective Pikachu, film uscito quest'anno, meno di una settimana fa, al momento in cui registriamo. È uscito ovunque, non lo so, il 19, il 9 aprile, 9 sì, buonanotte, il 3 maggio in Giappone. Questi problemi personali continuano ad esistere comunque. Esatto. 3 maggio in Giappone, 10 maggio e 9 maggio in America e Italia, e penso anche stesse date nel resto del mondo. A parlare di questo film ci sono io, c'è Jacopo. Ciao. Purtroppo Andrea non so che ne abbia fatto, però abbiamo rireclutato Edo, che tra l'altro è la stessa persona con cui abbiamo visto il film. Che Ciao. voce strana. Lo so, mal di gola, oggi è di È ottimo per fare un podcast. merda. Allora, intanto mi scuso della bassa qualità dell'audio, ma ho cambiato di nuovo location e la cambierò di nuovo nei prossimi 2 mesi, altre 2 volte almeno. E quindi non avrò il microfono, non avrò un'acustica, non avrò un cazzo e vabbè, sti cazzi. Però almeno c'è un sentore danese, cioè Non un avrei voglia di sussurro. vivere, non Cioè, avrei. esatto, Ecco, non avrò voglia di vivere perché questa è la verità delle cose. C'è un sentore danese, sì, anche di povertà in questo momento. Comunque, dunque, questo è un film. Il film è, diciamo, una produzione Warner Bros., Legendary Picture, insomma, tutte le solite cose di Pokémon Company e bla bla bla, tutti i brand giapponesi. E Pokémon è uno dei brand più, insomma, uno dei brand più di valore nel mercato al momento di cartoni, videogiochi, eccetera, eccetera. Se la batte con la Marvel, in realtà, secondo me. La verità però è che questo non è il primo film dei Pokémon, ma è il primo film live action di Pokémon. E quindi, insomma, segna un po' una svolta perché non si parla più di cartoni animati, ma si parla di film vero con tanta CGI. Questo film riprende quindi l'universo narrativo dei Pokémon, ma lo ambienta anni dopo, penso, così a naso, rispetto alla trama originale o rispetto a, insomma, ai vari cartoni, eccetera, eccetera, e lo ambienta in una città che non credo venga mai toccata. Però io sono un po' ignorante perché Pokémon lo Mai sentito. seguivo tanti anni fa e adesso sono vecchio e. Da Vabbè. quel che ricordo, no. Ok. Boh, in ogni caso, o per nostra ignoranza o proprio perché mancava, non l'abbiamo mai sentito. Vabbè, fatto sta che insomma l'ambientazione è un pelo differente, ma rimangono le stesse idee, lo stesso universo. E in questa storia, diciamo che questa storia si svolge in una città in cui Pokémon e esseri umani convivono, grazie a. Diciamo, la città è stata costruita per il volere di un miliardario che appunto per curare la sua malattia degenerativa ha pensato di studiare i Pokémon e di farli convivere insieme agli esseri umani. Quindi è proibito il combattimento tra Pokémon e gli allenamenti di Pokémon e tutte le cose a cui siamo abituati. Però ci sono anche un mucchio di altre cose nuove, per cui i Pokémon appunto aiutano la società a convivere insieme. Quindi ci sono Pokémon che aiutano il traffico, a Pokémon che puliscono i vetri e Pokémon che amministrano aziende. Non lo so l'ultimo, però faceva ridere. Il protagonista è un ragazzino poco giapponese Molto che poco. è esatto. No, cosa? Nero, quasi negro. Vabbè. Cioè, però. Un ragazzino che si chiama Tim Goodman, che diciamo vive fuori dalla città, ma ha un parente in città che è suo padre, che vive in città e fa il detective, mi pare. Ah, esatto, se pensate che la storia sia su queste questioni interessanti dei Pokémon che vivono in questa società, di queste, no, domande sull'etica degli allenamenti Pokémon, eccetera. No, il Ah, film è su tutt'altro e. chiaramente no. Vabbè, ma considerando che immagino che il pubblico sia quasi prevalentemente, almeno l'idea del marketing sarà su un pubblico molto giovane, penso, non lo so. Fatto sta che in sala con noi c'erano anche delle persone molto vecchie, da sole, senza figli, quindi tra cui noi, Tranquillo, e in esatto. realtà forse anche un po' ai nostalgici. Comunque, dicevo che questo protagonista ha un parente che è il suo padre che fa detective in città e che muore a causa di uno strano incidente. Allora lui semplicemente viene chiamato in città per prendere gli averi del padre, funerale, solite cose, ma si scontra con un Pikachu doppiato da un Ryan Reynolds che ormai fa sempre la stessa cosa. Vabbè, questo magari ci arriveremo dopo, e che lo aiuta. No, che lo coinvolge in un'indagine per trovare le cause della morte del padre, bla bla bla, e poi si evolverà la cosa e conoscerà anche un'altra, diciamo, l'aiuto della protagonista, il sidekick del protagonista, che è questa Lucy Stevens, che è una ragazza, sta tra l'altro orientale in questo caso, e un po' doppiata di merda probabilmente, non lo so. Di cui è orientale, però va bene, La faccia? ok? No, No, tu cioè lei è dici che è solo tipo sudamericana, mi sa. americana? Vabbè, allora niente, sono un Vabbè, razzista. tu non vedi la razza, è vero, tu sei. Vabbè, Sì, sì, sei sì. super parte, super razza. Grazie, va bene. Comunque, e va bene, niente, non, in realtà non c'è nient'altro da dire. La trama è grosso modo questa, e direi che non spoileriamo neanche il finale, che in realtà è carino. Niente di che. Me. Sì. Non vi è piaciuto? Non è piaciuto, non è male come cosa. Vabbè, sono un po' di cose telefonatine, ma fanno parte un po' del tipo di. Sì, no, vabbè, dipende da che punto di vista lo guardi, un po' come tutto il film. Va bene. Allora, il regista di questo film è un regista che ha lavorato spesso con la CGI e con l'animazione, perché ha fatto Dei filmoni fantastici, tipo. esatto, Mostri contro alieni, Fantastici viaggi di Gulliver e Piccoli brividi, che Ah, comunque sono film che lavorano molto con la CGI, mi sa. A parte Mostri contro alieni, che è un film d'animazione. Ma no, forse anche Piccoli brividi è un film d'animazione. no, Shark Tale, film d'animazione pure. Ah, Shark Tale è un film d'animazione. Vabbè, fatto sta che, insomma, non è un regista con un curriculum enorme, ma qua alla fine, secondo me, non se la cava neanche troppo male, tanto non è che sia troppo faticoso lavorare. Allora, è ovvio che allora, il film è costato 150 milioni di dollari, quindi parecchio. Probabilmente tutto il budget è andato in Ryan Reynolds e nel personaggio di Pikachu, che è fatto veramente da Dio. 50 a Reynolds, 50 per Pikachu, gli altri 50 per tutto il resto. Così a caso, su roba a caso. E ne ha incassati per ora, che siamo a circa una settimana, 170 milioni. Quindi in realtà è rientrato nel budget, non è rientrato nelle spese totali probabilmente, ma Sì, saranno, in totale saranno 300 milioni di budget compreso, esatto, ma credo che probabilmente. rientrerà così a naso. Ma sì. Cioè, alla fine sembra stia andando molto bene, per quanto sia un po' una cosa diversa e di nicchia e vale. Allora, il punteggio della critica è alto su Negativo. Rotten Tomatoes, ma basso sulla critica normale. Cioè, basso, non è. Ho visto film peggiori. Diciamo che è appena sotto la sufficienza. E basta. Allora, Quello che dico io è che secondo me, allora, vabbè, è un po' un'occasione sprecata perché appunto ci sono degli spunti interessanti che non vengono affrontati, però in realtà se deve essere solo un film così, un film leggero, un film d'animazione, un film per bambini, secondo me, allora, noi siamo stati abituati molto bene perché abbiamo visto film Pixar, film d'animazione con dei temi veramente importanti, cioè siamo abituati a vedere cose sia per bambini, ragazzi che adulti, cioè un po' a tutto tondo. Questo no, questo qui. Se lo metti vicino a un film della Pixar o un film Disney di quelli Esatto. belli, non, assolutamente non gli passa. Cioè, Esatto. È vero anche che Pokémon non è mai stato così. Quindi in realtà rispetto a cioè, questo. tu dici Pokémon non è mai stato in quella lega, diciamo, di Sì, cioè non ha adulti. mai voluto dire qualcosa di più. Beh, oddio, però in realtà i film, cioè perlomeno i film che ho visto io da piccolo, qua un po' di tematiche serie ce l'aveva. Non so, secondo me il primo su, cioè quello che poi alla fine un po' riprende, cioè da cui riprende questo film, ovvero il primo, cioè il primo film animato di Pokémon, comunque trattava tematiche anche abbastanza, cioè tra virgolette, serie, insomma. Sì, Però cioè mi ricordo quello dei Pokémon leggendari che non c'era un cazzo, cioè c'era forse l'inquinamento, ma... no, ok, quello sì, io parlo proprio del primo in cui c'erano Sì, sì, sempre sì. Mewtwo. Questo però, nel Ah, senso, spoiler, in questo sempre. film c'è Mewtwo, ma lo vedi tipo al minuto uno, quindi direi che... Vabbè, sì. Sì, spoiler. Comunque sì, cioè, un po' di tematiche serie ce l'aveva, però come questo film magari non le affrontava come le affronta un film della Pixar, proprio andandoci dentro. No, no, vabbè, certo, non per fare il paragone, però insomma. Ah, Però questo... No, vabbè, scusati. No, vai. dicevo che questa è chiaramente una vaccata, cioè anche le motivazioni del cattivo sono orrende, cioè è proprio una cazzata. Sì. Sei proprio una cazzatella di film, effettivamente. Però, insomma, non mi è dispiace, cioè me la sono goduto quel film. Esatto. Vabbè, dipende anche con che, diciamo, aspettative ci vai, cioè se lo vai a vedere aspettandoti un capolavoro della trama, degli intrecci, eccetera, ovviamente ti farà cagare perché obiettivamente. Però se ci vai pensando che è un film più orientato a bambini, cioè che dovrebbe essere più orientato a bambini, con una trama leggera che deve essere, risultarti simpatico, boh, secondo me ci riesce bene, insomma. Sì, non è. Cioè, se avessi visto questo film da bambino, mi sarebbe piaciuto tantissimo, come gli altri film di Pokémon. Sì. E anche per come è fatto, cioè, hanno veramente buttato milioni su come fare i Pokémon, cioè sulla grafica, e alcuni sono fatti Ah, benissimo. sì, no, è incredibile, veramente incredibile. È incredibile come non facciano tutti schifo questi Pokémon, che è una cosa Sì. che mi sarei aspettato. No, ma vi dico, cioè, io non me lo sarei immaginato, ma Pikachu mi sembrava davvero vero, cioè, mi sembrava un animale, reale. È veramente, Ratto no, è veramente incredibile, cioè, sono stati molto bravi, anche giù. come, cioè, a tanti di quei livelli di espressione, di movimento. Che è incredibile, sembra davvero un animale vero. Sì. E poi questo film, cioè come budget, come diciamo serietà, tra virgolette, c'è cioè la serietà che ci hanno messo nel trattare il materiale d'origine, diciamo, non si è mai visto per un videogioco, perché alla fine nasce come videogioco Pokémon. Cioè, finora qualsiasi film trattassero da un videogioco, cioè riuscissero ad adattare un videogioco, è sempre stato una merda. Cioè, Ah, sì, quello sicuro. è sempre finito malissimo. Ah, è Sì. tipo Doom, che a me è piaciuto, ma perché fa schifo, con il Oddio, c'è simpatico Doom. Andrei online, forse lo peschiamo. Riesci a entrare in diretta così mentre. Vabbè, vediamo. Vabbè, Cioè, intanto vediamo. Doom è una merda. Ma poi ce ne stanno altri 200 di film di videogame, di tipo di Uwe Boll, che è un tizio che continua ad acquistare licenze e a fare film in merda. Lo stesso Prince of Persia, cioè il Principe di Persia, nonostante fosse secondo me più che decente, rispetto a questo è un'altra cosa. Andrea! Andrea! Benvenuto, siamo giusto in diretta e stiamo parlando di Pokémon, come ben sai, forse. Allora me ne vado. Ciao. Andrea non l'ha visto, ma magari gli piacerebbe vederlo. Allora, finora non abbiamo detto un granché, ma io lo consiglio, se vuoi andarlo a vedere, se sei fan di Pokémon. È meglio di Avengers Endgame, sicuro. No, Va bene. non reagisce alla provocazione. Andrea, Dai, vabbè, sono lo stupido. carino, mi piacevole. No, sì, è stato piacevole, è stato No, molto. secondo me è essenziale anche adesso, non sono sicuro, però così a naso, cioè, non mi sono sentito preso per il culo. Nel senso che secondo me ci sono molti film simili che rischiano la presa per il culo, nel senso che magari ti vendono una cosa, tipo, ecco, questo è il messaggio del surriscaldamento globale, per dirne una. E poi vanno in bacca. Questo qua non ci prova neanche, le sue premesse sono semplicemente Ah, quindi facciamo. secondo te è un pregio il fatto che rimanga molto basso, Almeno molto. non mi ha preso in giro, cioè almeno non mi ha promesso una cosa per poi mandarla in bacca. Sì, è vero, cioè, la cosa mi è piaciuta, diciamo, separata ma simile come motivazione di questo film è che nonostante sia su Pokémon, cioè nonostante il motivo per cui siamo andati a vederlo è Pokémon, cioè sono i Pokémon, Certo. comunque ha cercato di. Non, diciamo, di non andare troppo in là, non dire ok, lo carichiamo di questo, di quest'altro, cioè è rimasto molto umana, la storia è rimasta molto umana, i personaggi sono rimasti molto, non voglio dire semplici in senso negativo, però semplici in senso di motivazioni, Vabbè, alla di fine anche il rapporto tra padre e figlio è la solita cosa trita ritirita, ma vabbè, non dice niente di sì, più. cioè è molto banale, ma in senso positivo, diciamo così. Cioè, Certo, sono riusciti a fare un film. è un po' una cazzata quella che lui non va mai a trovarlo perché, boh, Sì, pochissimo boh, cioè, senso, è però. pieno di stronzate questo film, però. E poi i dialoghi non sono banali, cioè sono normali, cioè non sono dialoghi neanche da videogioco che sono banalotti di solito, sono dei dialoghi da film, niente di eccezionale, cioè non sono da guardare, cioè se sei più di 10 anni puoi comunque goderteli. Sì, e cioè, se lo guardi come film d'arte è una merda. Se lo Vabbè, guardi certo. come film fatto Di intrattenimento non è da male. videogiochi e intrattenimento è un capolavoro, cioè nel senso è il miglior film mai fatto. Però alla fine è solo un film normale, e quella è la cosa migliore che potevano fare, secondo me, con le Vabbè, ma circostanze. secondo me appunto, ripeto, cioè, va visto come un film con cui passare tranquillamente un'oretta e mezza, lo guardi, cioè, vabbè, carino, Sì. cioè, non mi sono appallato, è stato, boh, mi sono anche Dai, divertito. io lo riguarderei anche. Wow, ah sì, in Volentieri. inglese. No, ma anche in italiano. Cioè, comunque non mi è dispiaciuto. Nel senso, poi a parte che voi lo sapete che guardo un film di merda, però non mi è Beh. dispiaciuto. Allora, oggi sentivo che c'era gente che si lamentava e diceva, no, che si lamentava, che diceva che il film non è così tanto Deadpool. Secondo me c'è un sacco di Deadpool, perché alla C'è molto fine dai pure. sì, cioè alcune battute sono quasi le stesse che dice in Deadpool, magari non volgari, però se Vabbè, è sì, fatta addosso. è Deadpool, però filtrate le volgarità, cioè nel Sì, senso. rimane ben poco, però sì. Sì, però vabbè, il senso è quello. Vabbè, Ryan Reynolds, cioè. Sì, la sua comicità in molte scene, comunque. Che è una cosa strana, comunque, vederlo attraverso Pikachu che si muove, che Sì, parla. cioè infatti sarebbe carino guardarlo in inglese forse. Sì, no, sicuramente, il doppiaggio italiano fa cagare. Non lo so, allora il doppiaggio di lui, vabbè, è il solito di Ryan Reynolds. Il doppiaggio di lei, io spero che sia. Perché allora, l'attrice che interpreta la ragazza, che io ovviamente non conosco, perché non so neanche cos'altro abbia fatto, la doppiatrice è molto brava perché di mestiere fa la doppiatrice, mentre lei sembra un po' legnosa. Io sarei curioso di vedere lei dal vivo, perché magari lei non è legnosa e ha la stessa, insomma, lo stesso carisma della doppiatrice, però vista così sembrava davvero forzata. Sì, poi infatti era, cioè, c'era qualche problema tra la voce e lei, e Sì, anche quello le sì. battute erano scritte male a volte, soprattutto per lei, il boss, per rivedere in inglese. Ma Quello vabbè. forse. Vabbè, per il resto direi no. Per il Pollice resto, buono. alzato. Pollice a E poi metà. ci hanno dato le carte Pokémon al cinema. Ah, No, beh, no, è vero, quelle lì, è vero. cioè, Promosso, promosso. nel senso, boh, mi sentivo male, cioè. Boh. Io pensavo di essere una persona integra, eticamente corretta, finché non mi hanno regalato la carta Pokémon, e ho detto, vabbè, Effetto già. nostalgia fortissimo. E tra l'altro la cosa molto bella è che io, che in realtà conosco solo i primi, la prima generazione, pochissimo la seconda, alla fine non sembravo perso come mi sarei aspettato. No, beh, c'erano molti della prima, principalmente, della prima generazione. Sì, c'erano molti della prima e effettivamente molto pochi della seconda. Cioè, la seconda non so neanche se. Forse un Pokémon, ma. Ma il Cippalippa col teschio in testa cos'è? Cippa-Lippa col Ah, teschio in testa. Cubone è il primo, prima Ah, Cubone, generazione. Cubone è il primo, sì, prima generazione. Cubone. È prima generazione? Sì, Cubone l'evoluzione era Marowak. E anche Lickitung? Anche Sì, lì che non ma allora sì. io sono un coglione. Va bene. No, Guarda, la ti dico anche dove, seconda. ti Ah, dico anche che il Cubone lo trovai per la prima volta. Dove c'è, come si chiama la città dove c'era la musica super inquietante nella Torre Fantasma? Lavandonia, Lavandonia, Cristo, Lavandertown. che nerd. ma scusa, dovresti guardare Game of Thrones. Ma però ecco, allora vabbè, Mr. Mime, sì. Ma quell'altro stronzo, la tartaruga, no. No, E no, neanche quello il non è. No, lince no, quello non è gigante. la seconda. Quello non era neanche la seconda e neanche la terza, secondo me. Io ricordo solo fino alla terza qualcosa, e gli altri che non erano della prima non ho visto nessuno. Però gli altri sono quasi tutti della, a parte Aipom, quello lì con la manina nella coda, che Ah, sì. è la seconda. Vi sto guardando su Google, non è che sia. Ecco, Torterra è della 400, quindi quarta. Ah, era Hermes di sì. E Greninja, che è quello lì che c'è dopo, è della sesta. Madonna, Vabbè, comunque. però Greninja è già più conosciuto, ce cioè lo conosco pure Io no. io. È uno dei più famosi degli ultimi usciti. È abbastanza famoso, insieme a Coso, Lucario. Però ecco, sono alcuni casi su un punteggio di Pokémon assurdo, cioè ce ne sono veramente tanti. Per quanto Edo non riesca a contare, ma ce ne sono numerosi. Vabbè, Vabbè, ma dai, lo dico. vogliamo concludere? Ah, sì, no, prima di concludere il podcast, abbiamo fatto una scommessa. Se vi ricordate, i nostri cari ascoltatori, abbiamo Abbiamo. scommesso. Lui no, perché era Ah, fuori intanto dal. c'è stato un riconteggio. No, quello no, dai, lascia Sì, perdere. no, è importante. Allora, c'è stato un Dai, non riconteggio fare l'onesto, su. tra un episodio e l'altro. Noi abbiamo registrato prima, è uscito il trailer di It ufficiale, It 2. E in realtà, come numero di visualizzazioni, ci ha preso, mi sa, Jacopo. E quindi il punto in più lo darei a Jacopo. Quindi quanti Vabbè, siamo? non mi ricordo, mi sa che eravamo 2 per te, 0 per gli altri, però. No, Vabbè, ci forse. no, secondo me 2-1-0, forse. 2-1-0. Vabbè, facciamo 2-2, dai, non sta a toglierlo. Va bene, 2-2-0. 2-2-0, e 0 gli ospiti per il E momento. zero gli Però. ospiti. Però Avevamo fatto una scommessa delle TP, cioè abbiamo scommesso su quanti Pokémon sarebbe uscito. Cioè, avremmo chiesto a Edoardo quanti Pokémon hai notato in questo film, che sei, diciamo, positivo di riconoscere, senza avere necessità di nominarli. Edoardo ci ha pensato e ha cominciato a dire, tipo, non lo so, 15-20, che era la scommessa di. Chi Marco. era? Di Marco, degli ospiti. Poi ha detto, ma tu pensaci, pensaci, e lui ha continuato. Dopo un po' ha detto, ma non lo so, tra 30 e 32, tu la pensi, ci vede, tu dici un numero, e poi tu dici, ho pensato un altro po', altri 10 minuti, alla fine hai detto 37, sì. Che confermerà anche Sala perché era presente. Beh, registra, e... beh, ah no, dici che è il numero che ha detto, sì, e purtroppo ero presente. Sì. E purtroppo era presente, e quindi ho vinto anch'io questa scommessa. Cioè, diciamo che io non li ho contati, però sono andato a memoria, la mia memoria fa cagare, quindi... boh, vabbè, non stiamo giudicando. Cioè, Io l'ho contati mentre guardavo il film per curiosità. Un po' ho fatto prima la cazzo, però più o meno il numero 35 pure per me. Forse però ne ho persi alcuni che non li riconoscevo. Ma vabbè, se il 35 c'è un punto in cui esplodono i palloncini che sono 200.000 punti. Dei punti in cui ce ne sono veramente tanti. Vabbè, io quelli che riconoscevo, cioè quelli che identificavo li contavo. Sì, però... vabbè, buono. Beh, c'è tipo quella scena in cui lui arriva in città che ne vede 200 milioni. Sì, esatto, cioè lì è... vabbè, cioè, comunque, perché non me ne ricordo, però lì ce n'erano tanti. Comunque i Pokémon sono tanti e io non mi pare di non aver visto neanche un Pokémon fatto veramente di merda, cioè che mi sembrava proprio un pupazzone, quindi sono stati proprio bravi. Guarda, solo l'unico un po' inquietante era Lickitung. Vabbè, perché è Lickitung? Perché lì è già inquietante di suo, quindi... e per me anche Gengar. Però vabbè, a me Gengar è piaciuto. Sì, forse quello deve essere inquietante, quindi ci può stare che gli occhi rossi così fritati. Vabbè, sì, diciamo sì. Ma forse Lickitung dava fastidio perché era tutto il treno e l'unico pezzettino in CGI era lui. No, però anche dopo ci sta lui, in un'altra scena. No, secondo me è proprio che la lingua, cioè tutta quella lingua è un po' strana. Un po' strana, un po' troppo grande, però vabbè. E per questa rubrica finale vogliamo fare una scommessa su John Wick? Ah, sì. Oppure volete fare, non so, qualcosa tipo... No, va bene su John Wick, ma quando esce John Wick? John Wick esce la prossima settimana, io dovrò andarlo a vedere. Ah, quanto io possiamo... ho scoperto che ho un cinema di fianco a casa, ma non so se posso permetterlo. È una storia tristissima. Allora... Non volete sapere quanto costa un film. Possiamo fare o John Wick una scommessa a casaccio, oppure potete dire voi un personaggio che secondo voi riuscirebbe a sconfiggere John Wick. Saitama. Vabbè, che cazzo. Come vi pare? Come vi pare? Possiamo fare una scommessa o possiamo fare un contest qui velocemente, rapido? No, cantando Super Saiyan. Sì, ho capito, deve essere comunque... della stessa, cioè sempre cinematografico, non così. È una persona di lui, credo che intenda un attore, cioè un no, cioè tipo un personaggio di un film simile, o comunque tipo Dwayne Johnson, esatto. No, io non dirò Dwayne Johnson, io sarò l'ultimo a dire. Intanto se Andrea si smuta ci può dire anche la sua opinione. Vabbè, non lo farà. Allora, appunto. Comincia? No, ma poi decido io? Sì, poi devi votare tu se volete fare questa cosa del... Dai, facciamo questa cosa. Ah, non mi ricordo chi ha cominciato l'ultima volta, quindi facciamo che stavolta inizierai tu, Sal. L'ultima volta ho cominciato io. E dopo di te chi ha fatto? Comincio io. Vabbè, comincia Sal. Io purtroppo... dico, no, non lo voglio dire. Vabbè. Ah, Andrea sta scrivendo, incredibile. Attenzione. Vabbè, diciamo, non lo so, sono un po' indeciso. Vabbè, c'è sempre Chuck Norris, dai. Chuck Norris contro Chuck. John Wick. Wow. Beh, ci può stare. Io pensavo a qualcosa di simile, purtroppo. Pensavi? Com'è che si chiama? Anche cosa volevo dire, tipo Steven Seagal. Io dicevo Steven Seagal. Io dicevo Steven Seagal. Macete, no. E niente, no. Voglio bruciare tutti io. Esatto, è 200. E niente, allora boh. Uno che può battere John Wick. Secondo me è qualcuno che non ti aspetti, cioè non può essere qualcuno che è troppo scontato. Esatto, qualcuno che dici cavolo, John Wick ci va preparato, cioè deve essere qualcuno che lo prende di sorpresa, secondo me. Qualcuno che non si aspetta, tipo di Bruce Willis direi. Bruce Willis no. È vero. Ma no, allora Bruce Willis non di Red, Bruce Willis di Die Hard 4. Madonna. Secondo me Chris Hemsworth con la panza. No, è Bruce Willis di Die Hard 4 è quello che ha ucciso una buttandole un SUV in testa in un androne di un ascensore. È vero. Forse non lo aspetterebbe quello. Vai, qualcuno che aspetta, no, Edoardo ancora deve dire la sua. Detto? No, ovviamente Steven Seagal, ma me l'hai rubata, cacca. Steven Seagal, mica ho detto io. Lo cancelliamo in post-produzione. Dopo lo cancelleremo. Dai. Va bene, Jacopo. Vabbè, vado io nel frattempo. Non lo so, qualcun personaggio di un film che non dovevo... cioè, lui non si aspetterebbe... Cazzo, mi è venuto in mente uno. Non l'ho trovato. Vai, forse. Vai. Beh, ma se non dici Jon Snow, sennò io quitto. No, il bambino di mamma ha perso l'aereo. Cazzo. È un vincitore. Dipende. Si basa tutto su quello che direi tu. Beh. No, no, io stavo pensando a... eppure stavo pensando a un bambino, cioè in realtà stavo pensando a una bambina, ma di un telefilm che nessuno ha visto ancora, quindi... Andrea dice Bruce Willis di Red. Sì, Rick Sanchez. Ha ragione Andrea. E niente, mi sa che Jacopo non ha niente, nessuno da dire. Il mio voto definitivo, va bene. Definitivo, no, avevo in mente... Dai, il bambino di... Il bambino della fabbrica di cioccolato di Tim Burton, che non volente uccide tutti. Da. Ok. Allora, io voto Edo, però anche un punto Andrea. Così riequilibriamo il punto d'onore. Ma... Va bene, allora siamo 2-3, uno Andrea e uno degli ospiti. Ah, quindi io non ho nome, io ho tu sei ospite. Quando Andrea darà il suo, ti farà firmare al posto suo. E allora sai chi può battere John Wick? Luca il giurato. Ah, sì, giurato. Per un attimo ho pensato a Luca Odis. Comunque, sarebbe bello. E noi ci vediamo la prossima settimana, in cui speriamo di fare un episodio serio, che è quello che volevamo fare, con un ospite speciale che. Forse se riesce Jacopo, perché io non ho queste facoltà, inventerà una rubrica. Ah sì, vedremo. E basta, e per il resto andate a vedere Pokémon e seguiteci sul nostro... Vabbè, ci state già seguendo, ci ascoltate. E grazie di tutti quelli che ci hanno mandato i feedback in settimana, tra cui Sheo, che ha detto che... Edo, sei stato molto bravo nell'episodio. No, non è vero. No, vabbè. E comunque. Però in questo dovremmo tagliare le parti in cui parla Andrea, perché effettivamente sono un po' troppe. È vero, sì. Però un po'. Pare che l'episodio di Game of Thrones sia piaciuto. E... Direi. E niente. Buon sabato e. Alla prossima settimana. Ciao ciao. Ciao. No, no, no. Dillo. No, non è più organico.